24 Mattino di Luca Telese. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di Primo Mattino c'è anche Oscar Giannino. Buongiorno, lo spazio dei cani e dei gatti, 8:19 minuti 47 secondi. Ho letto finora tutte le opinioni e tutti i diversi aspetti della cronaca sulla legge elettorale. Ora vi devo dire, con la mia esperienza e con la mia storia, essendo entrato come cronista parlamentare e come spettatore curioso a Montecitorio nel lontano 1990, perché secondo me questa legge è tarocca e ha tre punti. Non li ho visti così chiaramente raccontati in articoli. Sono tre punti molto ingannevoli. Il primo: c'è una scheda con due simboli, il proporzionale e il maggioritario, ma questo è il primo inganno, perché non puoi dare due voti come invece si poteva col Mattarellum. Quindi è una taroccatura, perché se dai due voti il tuo voto è annullato. Quindi ci sono due sistemi, proporzionale e maggioritario, ma uno annulla l'altro e confonde l'elettore. Quindi questo è il primo grosso problema. Secondo, le coalizioni, è la prima volta e ci sono delle coalizioni con delle liste dichiaratamente civetta. Cioè tu voti, che ne so, il partito degli animali che prende l'1,5% e sta in una coalizione, mettiamo nel centrodestra, e il tuo voto non va al partito degli animali, o perso se il partito degli animali non raggiunge il quorum, va al partito di centrodestra. Tu voti il partito dei precari, il partito dei precari sta nel centro-sinistra e non prende il quorum, il tuo voto non va al partito dei precari, non va neanche perso, va al partito di centrosinistra. Quindi il secondo inganno, che esistono coalizioni tarocche in cui addirittura il voto di uno serve a un altro, quindi quella lista è costruita per portare il tuo voto a uno che tu non vuoi votare, e questo a me sembra abbastanza grave. Terzo inganno di questa proposta di legge, che dovrà essere approvata con la fiducia fra poche ore, spero che sia bocciata: il collegio uninominale è finto. Sì, perché se uno corre nel collegio uninominale e perde, e tu dici bene, fuori dal gioco, no, qui corre nel collegio uninominale e addirittura in quattro altri paracadute, quattro, quindi è candidato al nord, in Piemonte, in Lombardia, eccetera, e poi anche nel tuo collegio del Lazio, dove in realtà è una chiappa voto, è un voto civetta, tu lo voti, quello perde e viene recuperato da un'altra parte. Attenzione, qui c'è una cosa incredibile: dove viene recuperato per questa legge? Dove ha preso meno voti. Cioè, se è eletto in più candidature, passa dove ha preso meno voti, neanche dove ne ha presi di più. Questo perché queste candidature sono pensate come una lotteria, che tu voti da una parte e i partiti ti fregano, prendono il tuo voto facendoti credere che tu stai eleggendo uno, per esempio, che ne so, Fassino a Torino, e invece Fassino viene eletto da un'altra parte. Allora, Oscar Giannino con noi. Eccoci qua. Ma tu vuoi mettere questa telecamera che io ti possa vedere, ti possa controllare? Ma perché non sai come cominciare, quindi te lo faccio fare tutte le mattine a esaurimento. Vedo inquadrato un mouse, un microfono, dei fili, dai, poi, ti prego, fammi una vedere la pelata. Ti prego, ti prego, non ne posso più. Pagina con una G. Pagina. Ti prego, ti prego. Capito? Ti prego. E con noi Piero Fassino, buongiorno. Eccolo, il suo libro PD davvero, appena uscito, La nave di Teseo, un racconto, un saggio, un pamphlet su come dovrebbe essere il Partito Democratico, che, come dice lui, ha 10 anni e ormai entra nell'età della maturità. Fassino è lì? Sì, sono qui, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dice subito il suo libro, l'intento con cui l'ha scritto, sta girando tutta l'Italia, lo invitano tutta l'Italia. Qual è il messaggio che lei vuole dare, il messaggio primario? Il messaggio è che a 10 anni dalla nascita del Partito Democratico le ragioni per cui noi lo abbiamo costituito non sono ancora valide, ma lo sono ancora di più. E tanto più di fronte a uno scenario politico che vede da un lato l'insidia del populismo di 5 Stelle e dall'altro il ritorno della destra di Salvini e Berlusconi. E il Partito Democratico è l'unico argine, diciamo, a due derive che rappresenterebbero un serio problema e danno per l'Italia. Questo però significa che il Partito Democratico deve mettersi nelle condizioni di raccogliere le domande che il Paese e la società pone, e soprattutto misurarsi con le sfide che nuove o anche non nuove, ma che comunque ha davanti. Penso al tema dell'immigrazione, al tema della sicurezza, a come rilanciare il processo ambientale, e il libro non è tanto un libro sui 10 anni del PD, parte ovviamente da questi 10 anni, c'è anche una ricostruzione cronologica di come siamo arrivati attraverso l'Ulivo al Partito Democratico, ma è soprattutto un libro sul futuro, su come dovrebbe essere, comode e le sfide che abbiamo davanti. E infatti tutti i capitoli sono ordinati per domande. Allora, ricordiamo i numeri 800 24 00 24, se volete intervenire, se volete fare delle domande a Fassino, come capita ogni giorno con i nostri ospiti, se avete dei dubbi, delle curiosità sui temi che abbiamo trattato, 349-238-6666 per mandare dei messaggi. Ricordatevi la segreteria telefonica, raccontateci perché vi svegliate, come mai il racconto a 24 mattino avviene anche con questi messaggi. 02 30 22 44 92. Oscar, allora io devo dire la verità, sono sospettabile di essere di parte perché sono torinese, quindi Fassino è stato anche il mio sindaco, come cittadino della città, però io inviterei davvero tutti coloro che sono in ascolto a non diffidare di questo libro, cioè non è il libro elettorale di un politico, nel senso che io l'ho trovato molto interessante, lo dichiaro prima di fare la domanda, l'ho trovato molto interessante perché non è così diffuso nel bilancio di questi 10 anni trovare un politico di prima fila, è stato ministro degli esteri, del commercio estero, alla giustizia, leader per anni di un pezzo fondamentale della sinistra italiana. Ecco, non è così facile trovare un bilancio di questi anni in cui, per esempio, non si dice no alla globalizzazione, si dice bisogna stare dentro e governarla, non si dice sì al nazionalismo e agli interessi nazionali intesi come nazionalismo, ma si dice bisogna avere sempre una modalità multilaterale perché siamo un paese che esporta, le imprese eccetera, si dice il debito pubblico deve diminuire e bisogna farlo anche con le cessioni di asset pubblico. Non ho trovato il mantra del deficit al 2,9% che ripete sempre Renzi. Addirittura c'è una pagina 180 in cui udite discute per una pagina intera in maniera aperta, ovviamente a un punto di vista critico, la flat tax. Allora io dico che c'è bisogno di riflessioni di questo tipo, però chiedo a Fassino, proprio per questo, non è che per caso i toni che ha la sinistra nella riflessione di questi anni, cioè dire Blair ha sbagliato tutto, abbiamo sbagliato sulla globalizzazione, ci vuole Corbyn, rinazionalizziamo tutto eccetera eccetera, ecco, questo a me sembra un rischio molto forte, a dire la verità, anche da noi, se vedo alcuni toni. Nel suo libro non c'è traccia di questo. Domanda, chi vinceranno, i Corbyn o quelli come lei? Penso che la riflessione che ho proposto parte esattamente da questa considerazione che faceva adesso lei, e la ringrazio anche degli apprezzamenti che ha voluto dare al libro, e cioè noi abbiamo bisogno di una sinistra riformista che guardi negli occhi i problemi e si ponga il problema di governare e di gestirli. Io a un certo punto nel libro dico una formula: serve una sinistra che non abbia paura della globalizzazione, ma si ponga il problema invece di dargli delle regole e una responsabilità sociale. Ma lo sa che per molti oggi la politica invece è fare proprio l'imprenditore della paura? Ma io penso che l'ha contrastata. Questo libro è anche lo sforzo di offrire una riflessione politica che restituisca speranza. Viviamo un tempo nel quale prevale spesso la paura, l'angoscia, l'ansia, la preoccupazione, naturalmente. Paura e angoscia, ansia portano a chiudersi, no? Senta, però sembra il libro di uno che ha, per così dire, è un po' autocritico sul fatto che forse è stato troppo generoso spesso. Si ricorda poco, ma lei in molti passaggi della sua linea politica, per esempio quando D'Alema doveva essere presidente della Camera poi non lo fece, quando doveva essere presidente della Repubblica poi non lo fece, lei fece un passo indietro e così via. Lei è uno di quelli, a differenza della lotta a coltello personalistica che è stato il disastro della sinistra in questa seconda Repubblica, che ha spesso fatto un passo indietro e ha detto no, pensaci tu. Poi dopo aver fatto il leader è andato a fare il sindaco di Torino, non moriva dalla voglia, lo sappiamo tutti. Si è pentito di essere stato troppo generoso nei confronti dei suoi compagni? No. No, non credo, penso che faccia parte delle caratteristiche di un politico anche saper fare passo indietro quando questo è necessario, diciamo per una causa. Questo non significa che io, come chiunque, non abbia le mie aspirazioni, le mie ambizioni, ma ciascuno di noi deve sempre misurare le ambizioni. Non è cosa diffusa. Grande. Le faccio un'ultima domanda, poi restituisco il microfono a Luca. Senta, nel passaggio sulla riforma costituzionale ci sono delle belle pagine in cui lei dice testualmente, non credo di stravolgere il suo pensiero, no al riformismo calato dall'alto, no al riformismo decisionista. E sono le pagine in cui si parla dell'esito del referendum del 4 dicembre. Nel suo libro non c'è una parola di critica a Renzi, però insomma, voglio dire, è un taglio di riformismo decisionista. È chiarissimo di chi si sta, almeno per me, mi sbagliavo a interpretarlo narrato così, perché mi sembra un giudizio anche quello non diffuso all'interno del PD in pubblico da parte di lui. Guardi, questo tema del no referendum dell'altro non è solo un tema dell'oggi. Io ricordo di aver posto questa questione nel 2001, quando mi candidai segretario di DS alla fine del quinquennio dell'Ulivo, quinquennio che come sappiamo finì con la sconfitta elettorale. Dissi: noi abbiamo pagato anche il riformismo dall'alto, cioè pensare che se una riforma noi la pensiamo buona sarà considerata buona dai suoi destinatari automaticamente. Non è così, le riforme cambiano, le riforme mettono in discussione assetti consolidati, abitudini, consuetudini, interessi, rendite di posizione. Quindi una riforma va sempre gestita, cioè una riforma pone il problema di come tu gestisci una riforma per farla assumere, vivere e conoscere da quelli che ne sono i destinatari, e questo porta a un tema che io pongo, cioè il riformismo ha bisogno di un partito forte, perché chi è il soggetto politico che poi agisce in una società e fa riconoscere e vivere le riforme che vuole perseguire? Non lo fa né il governo né il Parlamento, che danno altre funzioni. È un soggetto politico che deve essere l'attore di una strategia di riforme e farle vivere in ragione tale che siano riconosciute. Io cito una bella espressione di l'attuale presidente tedesco di Steinmeier, che è il vero artefice delle riforme di Schröder, che dice: bisogna sempre fare i conti con l'insofferenza alla riformabilità. Ecco, una bella espressione. Ecco, vedi, allora sì, abbiamo cosa, la pubblicità, Luca, siamo, guarda che siamo fuori due minuti. Pochissimi leader italiani direbbero: è stato Steinmeier il vero regista. Ecco, l'esperienza internazionale ha fatto molto bene a Fassino, i suoi colleghi ne hanno molto meno, punto. Allora ci fermiamo la pubblicità e dopo discutiamo con Fassino dell'argomento del giorno, il Rosatellum. Fra l'altro le parole di Renzi vengono proprio dalla presentazione del suo libro ieri. Ma fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Luca Telese, Oscar Giannino al telefono, ospite Piero Fassino, e siccome avete fatto un cartello torinese, qui mi tocca a me cercare di essere un po' perfido. No, Fassino, sto scherzando, ma le volevo chiedere su una cosa, su un passaggio decisivo della storia politica recente. Lei si ricorderà bene che nelle primarie del suo partito si iscrisse in una sezione di Arzachena, si iscrisse Beppe Grillo, voleva partecipare alle primarie, poi quella iscrizione fu considerata stracciata e come si sa Grillo fondò il Movimento 5 Stelle. Lei disse anche una frase che ora le rimproverano molti: Grillo si faccia il partito e vediamo quanti voti prende, e tutti i grillini dicono: ecco là la profezia di Fassino, i voti li ha preso. Però volevo chiederle, se Grillo gli fosse stato consentito di correre, sicuramente non avrebbe vinto, e non pensa che quella protesta, quella rabbia sarebbe stata, come dire, assorbita nell'alveo della sinistra socialdemocratica italiana? La storia non si scrive mai due volte, quindi le cose sono andate. Però lui voleva correre con voi. Io ricordo, perché poi si fa spesso dell'ironia, ma si raccontano le cose. Andiamo a prenderci le cronache dei giornali di quel tempo. Cosa diceva Grillo del Partito Democratico? Diceva che il Partito Democratico era un partito di cadaveri. Ora, uno che si vuole candidare a guidare un partito di cadaveri, se mi permette, è una contraddizione un po' vistosa. E per questo io dissi: se vuole far politica si faccia un partito, ma non è che può pretendere di guidare un partito che considera morto di cadaveri, di venduti, di corrotti, perché non stanno insieme le due cose. Ci vuole un minimo di coerenza nelle cose. Se uno pensa che un partito è morto di cadaveri, non si candida a guidarlo, o sbaglio? Beh, questa è la lingua di Grillo, ovviamente, ma le chiedo, non è convinto che avrebbe perso in una sfida, ovviamente, con un partito strutturato, con una leadership riconosciuta, legittimata? Non lo so, e comunque credo che una volta, che qualora avesse perso, probabilmente avrebbe dato luogo lo stesso ai 5 Stelle, al suo disegno di fondare un partito, visto che aveva questo disegno. Quindi non credo che la storia sarebbe poi cambiata di molto, però la storia, ripeto, non si scrive mai due volte. sicuramente. Senta, invece volevo chiederle il suo parere sulla legge, perché io ho spiegato in apertura, non so se ha sentito, perché ci sono dei punti che mi lasciano perplesso, cioè vedo proprio un proposito ingannevole in alcuni di questi aspetti, mentre invece Renzi, nella presentazione del suo libro l'ha difesa con le unghie e con i denti. Volevo chiederle, secondo lei, ecco, qual è la sua opinione? Ma guardi, io penso... Legge elettorale? Io penso che ci sia necessità di dare al Paese una legge elettorale che consenta agli elettori di sapere tra qualche mese per chi si vota, cosa si vota e come si vota. E che la legge che viene presentata sia certamente migliore del consultellum, che è una legge elettorale che poi, modificata dalla Corte Costituzionale, ha molti gusti. Penso anche che però il vero problema, visto che la discussione è poi tutta ruotata intorno a voto segreto o non voto segreto, il vero, diciamo, contraddizione è di pretendere di discutere, di approvare una legge elettorale sottoponendo ogni articolo a voti segreti che, diciamo, consentono a chi vuole destabilizzare la legge e il sistema politico di farlo. Dico di più, però il regolamento della Camera, mi faccia dire, la legge elettorale non è un vestito di Arlecchino. Non è che io posso togliere l'articolo 1 ma tengo il 2 e poi tolgo il 3 perché viene fuori solo un pasticcio. Cioè, la legge elettorale deve avere una sua organicità, quindi io la struttura la trovo nel fatto di pretendere di... Cioè, non si può sottoporre la legge elettorale allo stesso procedimento legislativo di una normale legge, non so se è chiaro. Però c'era una prassi parlamentare per cui non si è mai messa la fiducia, c'era una prassi parlamentare antica che ha seguito anche lei quando era leader, che non si mette la fiducia su una legge elettorale perché si dice che è compito del Parlamento, sì, di tutti scrivere le regole. È un atto estremo. È un atto estremo, mi consenta, a gesti altrettanto estremi, perché era conclamato, cioè su tutti i giornali, dichiarato che il voto segreto era finalizzato a destabilizzare la legge e il quadro politico, quindi si usava il voto segreto in termini degenerativi rispetto alla funzione che ha. Il voto segreto è per garantire una libertà di coscienza, che secondo me andrebbe applicato a questioni che hanno valore etico. Una legge elettorale non ha un valore etico, è uno strumento, una regola. Però è discutibile che ci sia il voto segreto su una legge elettorale. Però Fassino, se poi lo fa articolo per articolo, il risultato è che il risultato di quella procedura le consegna una legge che dopo è ingestibile. Bisogna fare i conti con questo problema. Però Fassino, lei è un politico di lunga data di esperienza, sa benissimo che non sbagliamo noi giornalisti a dire l'impianto di questa legge, quello su cui c'è stata alla fine la convergenza con Renzi, tra Renzi, Berlusconi, Alfano e la non opposizione della Lega, c'è anche la Lega, è un impianto dal quale non c'è un meccanismo di coalizioni omogenee per governare, lo sa meglio di me perché la parte maggioritaria è minoritaria sugli eletti, uno, due, quindi le coalizioni sono autodissolventesi. E cosa non vuol è dire? Maggioritaria vuol perché dire poi che c'è il paracadute. PD e Forza Italia, dopo, se uno tiene retta ai sondaggi, però di lungo periodo oramai, non quelli di queste settimane, si troveranno da una parte a mani libere, dall'altra a dover giustificare i propri rispettivi elettorati dopo anni e anni e anni che devono convergere. Almeno agli occhi di chiunque osservatore deve descrivere questo impianto politico, non è un bel impianto, perché non si capisce come il leader del PD possa dire poi al suo popolo all'indomani facciamo il patto con Berlusconi. Non c'è l'alternativa a questo nella scelta di questa legge elettorale. Allora, questo è il problema a spiegarla, oltre a tutti i difetti su cui mi ritrovo. Io sono un maggioritario, è ovvio che avrei preferito un'altra cosa. Lei mi potrà dire non è colpa nostra se da soli non possiamo farlo, d'accordo, però la convergenza alla fine della riforma su cui si mette la fiducia politicamente sembra questa. Dove sbagliamo? Ma, scusi, lei sa che noi abbiamo proposto come legge elettorale un sistema elettorale a doppio turno con collegio uninominale, cioè il modello francese. Capito. Che ha questa doppia virtù, consente al primo turno ogni partito di presentarsi e di misurare quanto consenso ha, e però al secondo turno sollecita alle coalizioni, alle alleanze e consente governabilità. Questa legge è stata, per una parte rifiutata dal segnale politico, per altra parte corretta dalla Corte Costituzionale, e quindi noi ci siamo trovati nella necessità di dare una legge diversa al Paese. Questa legge che sta venendo fuori dal Parlamento non è la migliore legge, non è neanche la legge che inizialmente ha proposto il PD, e bisogna far di necessità virtù, anche perché per approvare una legge elettorale è necessario un consenso sufficientemente largo, come avviene sempre per le leggi elettorali, quindi questo è il tema. Però le posso fare un esempio, Fassino, di come per me io posso aggiungere, sì, considerazione. Sì, io considero una cosa curiosa, quella che in l'Italia è l'unico paese in Europa dove si pretende di decidere chi governerà prima che si voti. Le faccio un esempio: in Germania la Merkel e Schulz hanno condotto tutta la campagna elettorale senza dire che governo faranno dopo, e nessuno gliel'ha rimproverato, perché tutti e due hanno detto: io farò l'alleanza sulla base dei risultati elettorali. Mi sembra anche, come dire, rispettoso della volontà popolare. Tant'è vero che la Merkel aveva la possibilità di fare un governo con i socialdemocratici, cioè di fare il governo con liberali e verdi. Fassino, lei ha ragione, però... E sulla base dei risultati elettorali... Fassino, lei ha ragione, ma governavano già insieme i socialdemocratici. Il vice premier è un socialdemocratico, mentre PD e Forza Italia hanno due elettorati e due leadership che da anni e anni dicono ciascuno peste corna dell'altro, tranne che poi su alcune scelte di fondo convergono sempre misteriosamente. Questa è la cosa che ovviamente a chi fa l'osservatore non torna. Sì, ma io le dico, se lei ha una soluzione per risolvere questo problema, va bene, va bene, va bene. Scusi Fassino, io provo a farle un esempio e le spiego perché considero santo quel voto segreto e spero che sia fondato nell'unico voto segreto che è rimasto, essendo stati cancellati tutti quelli che il regolamento democratico della Camera prevedeva. Se no, cancellatelo il voto segreto, no? Allora, il problema è che io non posso votarla. Cioè, se io volessi votarla, se io fossi un elettore che ama Fassino, in realtà io non posso votarla. Primo, perché se Renzi, lei fosse in disgrazia per qualunque motivo, in questo momento no, non la mette in lista, lei è fuori. E non ci sono, e non ci sono regole. Sì, ma non ci sono regole. Lei sa che in America ci sono primarie regolamentate per legge. Secondo, mettiamo che la metta in lista. Se lei è sull'uninominale, io la voto sul proporzionale, sull'uninominale il voto è nullo. Secondo, se io la voto sul maggioritario, lei è candidato da un'altra parte e viene eletto da un'altra parte, quindi è una truffa. Lei è messo come un voto civetta con questa legge, perché non c'è una sola candidatura, ma ce n'è addirittura quattro multiple oltre a quella. Terzo, abbiamo già trovato tre motivi per non votare Fassino. Posso dire? No, io posso voglio dire, eleggere Fassino. Voi volete, no, scusi, e chiudo. Cioè, voi politici oggi volete proporci una legge che sottrae il controllo dell'eletto agli elettori, che dovrebbe essere sovrano, e lo consegnano alle segreterie dei partiti. Questo, secondo me, anche lei dovrebbe dire che non è bello. Allora, io considero curioso che tutte queste obiezioni non sono mai state fatte in 50 anni di legge elettorale proporzionale, in cui le liste... No, non è vero che non erano fatte. Scusi, le liste venivano fatte, chi veniva messo in lista non lo decideva. Ma certo, tanti anni di battaglie le abbiamo fatte alla fine della prima repubblica, è caduta per quella. Tutte queste obiezioni io non le ho mai sentite. Cerchiamo di essere Fassino, i referendum sul maggioritario sono nati per quello. Va bene, va bene. Vabbè, lasciamo perdere, se non posso dirla mia, dite voi quello che volete. Prego. In tutti i sistemi politici ci sono i partiti e i candidati li decidono i partiti. Non fate credere che i candidati li decide lo Spirito Santo. Vero. In qualsiasi sistema politico, in qualsiasi sistema elettorale, con la proporzionale, col maggioritario, con il doppio turno, i candidati sono candidati dei partiti e sono i partiti che li decidono. Quindi questa storia, se Renzi non la mette in lista, vale con qualsiasi sistema elettorale, perché sono i partiti a decidere i candidati, non li decide lo Spirito Santo. È un'obiezione che non ha fondamento, se mi permette, punto primo. Punto secondo, non è vero che questa legge elettorale non consenta all'elettore di scegliere, perché un terzo dei parlamentari che verranno eletti saranno eletti in collegi uninominali, dove ogni partito presenta un solo candidato. In un collegio c'è Fassino candidato, c'è Giannino per un altro partito, c'è un altro. L'elettore sceglie e quello lì che sarà eletto sarà stato eletto dagli elettori, e io lo considero certamente. Però è candidato in altri quattro collegi. Delle preferenze che in Italia ha dato luogo a pratiche del tutto degenerative, come sappiamo bene, no? Terzo, se lei cerca una legge elettorale perfetta, no, vabbè, certo, che non abbia contraddizioni, guarda che non la troverà in nessuna parte del mondo. Sì, ma l'Italia invece di adottarne una che funziona, Oscar, da decenni di qualunque modello, se ne inventa una ogni due legislature. Sempre una. Sempre peggio. Abbiamo solo la pubblicità e torniamo fra un attimo. Ciao, caro. Mattino. Oscar Giannino, Luca Terese al telefono, un Piero Fassino. Il capitolo che si apre con questa domanda: Europa, conviene o ci perdiamo? Fassino, qual è la sua riflessione? Mi scusi, non, non ho sentito. No, un capitolo del suo libro si intitola Europa, ci conviene o ci perdiamo? Ci può riassumere la mia risposta è che ci conviene, perché noi viviamo in un mondo che è il mondo della globalizzazione, dell'interdipendenza, della sovranazionalità. Non c'è nessun tema oggi di un qualche rilievo per la nostra vita che si risolva adeguatamente soltanto sulla base di politiche nazionali. Servono politiche di scala più grande, pensi all'immigrazione, giustamente c'è tutta una battaglia che l'Italia fa in Europa perché l'immigrazione venga considerata un problema europeo e non un problema italiano, e così vale per tante altre questioni. Quindi io penso che la scelta dell'integrazione sia una scelta assolutamente necessaria e, siccome l'abbiamo compiuta 50 anni fa, 60 anni fa, irreversibile. Dopodiché naturalmente però l'Europa deve anche darsi una mossa, nel senso che deve mettersi nelle condizioni di corrispondere alle aspettative dei cittadini. Non può essere soltanto un'Europa centrata sugli equilibri di bilancio. Bisogna che sia un'Europa che sia capace di rilanciare crescita, lavoro, investimenti, sviluppo, perché questo parla ai cittadini, perché corrisponde alle loro esigenze di lavoro, di prosperità, di certezza. Un'Europa che appaia solo come vincolo, come regole, è certamente meno appetibile e meno fruibile, e io credo che in questi anni questo limite c'è stato e debba essere superato. Allora, dobbiamo dare a Fassino modo di prendere il treno. L'ultima domanda riguarda solo la sua vita. Lei si sveglia presto, tardi, dorme, insonne, studia, lavora. Come sono i suoi ritmi biologici, Fassino? Quelli soliti, nel senso di una persona che si alza alle 7:30 del 7:30 del mattino e durante la giornata svolge le sue attività, i suoi impegni. Io sono un uomo politico, faccio politica, sono nuovamente tornato a occuparmi molto di politica internazionale, quindi lavoro molto su questo fronte e poi mi occupo del PD, come si vede con la scrittura di questo libro. Bene, qual è la prossima presentazione? PD davvero, edizione questa La Nave sera, in Casa? Grazie, questa sera a Milano alle 6 alla sede della Fondazione Corriere della Sera in via Balzan, con Antonio Polito del Corriere della Sera e il ministro Martina. E pensate, bene, cari radioascoltatori, che gli è toccato perdere un'elezione avendo raccolto il 42,3% dei voti, che oggi si sognerebbe chiunque. Amara, la storia a volte è amara. Con Piero Fassino lo è stata più volte, secondo me. Adesso tutti pensano, voti PD? No, io sono oggettivo e mi ricordo che la storia con alcuni è generosa e li fa straparlare, con altri meno e non straparlano. Ecco. Buongiorno Piero Fassino. Grazie a voi. Buon viaggio. Oscar, bella questa contesa sulla legge elettorale, perché la cosa che mi ha colpito leggendo il pezzo della Guerzoni, attenzione, è un altro effetto di questa legge un po' perverso. Per mettersi d'accordo, praticamente il PD con questa legge dei collegi ha quasi consegnato il nord al centrodestra, ottenendo in cambio la possibilità di battere i 5 Stelle al sud. E sono furibondi molti deputati che sono del centrosinistra ma del nord e dicono: ma io non posso più correre, se quella diventa la coalizione vincente per effetto di questi apparentamenti io rischio di essere fregato. E sono anche molto incazzati molti di Forza Italia del sud, per ragioni converse, che sono però nella sintesi che hai espresso. E però parliamoci chiaro, queste cose non sono ignote divisi a tavolino, ai tecnici di Renzi e di Berlusconi che hanno detto sì. Cioè, questa è il succo della convergenza politica. Io ci aggiungo un'altra cosa di cui i colleghi non parlano sui giornali, ma che vedrai emergerà. C'è anche un addendum di affari. Perché dichiarazione ieri di Orfini, che viene da un articolo che ha scritto, lanciata sull'Ansa. Dice Orfini, non uno che parla a caso se decide di parlare di economia pubblica e privata, dice: la mia opinione è che la CDP assumerà una quota in TIM, e la motiva così, perché è necessario dare una mano a Vivendi, cioè a Bolloré, per concentrarsi sull'intesa non conflittuale con Mediaset. Capisci? Il ruolo dello Stato è quello di entrare in Telecom Italia, e questa è un'antica ambizione per rimetterci in zampa pubblica, ma per risolvere il problema del chi esercita il controllo Vivendi, no Bolloré, stai prendendoci troppi soldi e non te lo facciamo fare. Fai un accordo e risolvi il conflitto dando un bel po' di soldini a Berlusconi in media, se te fate l'accordo per una media company europea. Questo è lo sfondo di affari dell'intesa tra la segreteria PD e Berlusconi. Non facciamo finta, cari colleghi che si occupano di economia, di non saperlo e di non vederlo, perché è una partita che come al solito si gioca sulla televisione. Come far crescere il gruppo di Berlusconi, che in Italia non può crescere e in Europa ha picchiato il muso, e come risolvere il problema di un azionariato forte estero in Telecom Italia che alla politica non piace. Ecco, l'impianto politico di questa convergenza, oltre a quello che hai detto tu Luca, che condivido, su nord, sud, non c'è una maggioranza coesa, le fregature nel no al voto disgiunto e così via, c'è anche uno scenario che è quello solito dietro il patto del Nazareno: gli interessi economici in campo. Senza dubbio. Allora, Alessandro Rieti ci scrive: grazie, ammetto di non conoscere i tecnicismi, voi giornalisti ci mettete in condizione di entrare nel merito, avete fatto bene a chiedere a Fassino della legge, ma potevate farlo continuare a farlo parlare su quel tema. Sì, ma lui doveva prendere il treno, non è che è stata una censura, come vedete non abbiamo risparmiato nessuna domanda. Giulio da Roma, rapido. Pronto, sì, buongiorno, volevo dire che non mi piacciono, diciamo, le persone che parlano dicendo una cosa e poi alla fine appoggiano un partito che ne fa un'altra. Ricordiamo che veniamo dal partito di Renzi, che ha posto oltre 57 fiducia in 2 anni, il governo Gentiloni si sta avvicinando al record di Monti di 3 fiducia al mese, quindi sì, le riforme non vanno imposte d'imperio, però vedo che ultimamente non si riesce a fare quasi altro, quindi è comprensibile che ci sia una resistenza del paese. E assolutamente poi... sì, Gentiloni aveva detto anche nessuna fiducia sulla legge elettorale. Niccolò da Montoro. Niccolò? Salve, buongiorno. Ehi, ecco, vai. Niente, volevo dire che oltre alla questione che voi avete analizzato molto bene, che è avvenuta all'interno del Parlamento, c'è stata un'altra cosa che non ha, di cui ha parlato poche persone, che è avvenuta fuori, da Montecitorio. La protesta. Ma ne parliamo tutta la mattina, ho letto i giornali, ho letto due pezzi. Come vede, poi noi stessi obiettiamo. C'è nei TG, nel notiziario di Radio 24. No, quello no. Niccolò va bene, ma noi parliamo di tutto. Chiudi tu, Oscar. Loris Bertocco, morto ieri in una clinica svizzera, 59 anni, da 40 anni paralizzato. Non ho soldi per pagarmi le cure, lo Stato lo ha lasciato solo. Era un grande attivista dei diritti, l'ho conosciuto, mi vergogno di stare in uno Stato che a questa gente sa solo dire andate oltre frontiera per il suicidio assistito. Mi vergogno e lo abbraccio per la scelta che ha fatto. Ciao, a domani. Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Vi ha presentato 24 mattino.